pensi quando ti dicono che usiamo solo una piccola percentuale delle potenzialità del nostro cervello e non riporto dati precisi per non sopravvalutare l'autorità della scienza odierna, cosa che troppi fanno per necessità di una verità eterna. Io penso che non ce n'è bisogno della neurologia per accorgersene. Quindi si crede in buona fede dotato di capacità superiori e spesso preda di se stesso, e chi inventa test come un laboratorio di dietetica è un fesso, e chi considera la parapsicologia neumenica non cerca la verità ma un compromesso. In ogni caso io preferisco dell'impero fuori la patologia dietro ogni chiaro vergenza o misticismo, e so che chi utilizza poco il suo cervello sovente un esempio sano di uomo, e che se mi ritardo subito a guadagno non vedi il mio futuro ma al massimo il passato, nel senso delle tracce che mi ha lasciato ciò che nelle ore precedenti ho toccato. Chiropazia oltre le nazioni, complimenti. Parapsicologia, parapsicologia, parapsicologia, parapsicologia.